scuola, tra casa e scuola, ma fermarsi non si può. Sogni qualcosa, una novità, per non essere sempre là. Il destino all'improvviso cambia il tuo DNA. Dimmi un po' chi sei, lo sei più la stessa e tu lo sai. Hai collato il copyright, ma chi sei? Lo sei più la stessa e adesso puoi trasformarti quando vuoi. Ma in questa prova non sei da sola. Cintami che bilanci ed incendi, tengo fuori di baci splendenti. Io tengo la mia, ma le cose le fai sempre solo tu. Che tu fai anche a me, che tu sei pelle vincenti, così tanti, così sorprendenti. Oh, okay.